Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Un caro saluto a tutti voi, cari ascoltatori, che anche questo mese vi trovate sintonizzati con questo appuntamento che ci pone alla scuola della parola di Dio. Ecco, fin dall'inizio della nostra trasmissione chiedo il dono dello Spirito Santo, il dono della chiarezza per me, dell'umiltà, dell'ascolto vicendevole e della capacità di rendere la parola che ascolteremo una parola viva, efficace per ciascuno di noi. Ricordo sempre che il titolo del nostro appuntamento mensile è un po' un programma per ciascuno, cioè quello di trasformare la parola di Dio non in qualcosa che colpisce solo la nostra testa, ma che in qualche misura va a toccare il nostro cuore, va a toccare la nostra vita. In questi mesi noi stiamo percorrendo il Vangelo di Marco dall'inizio alla fine. In tal senso l'iter di Lectio Continua riguarda proprio questo Vangelo. Visto che siamo però vicini all'appuntamento con il mistero dell'incarnazione, quindi all'appuntamento con il Natale, in questa puntata ho pensato di sospendere un attimino la nostra lezione continua di Marco per dedicare questa ora e mezzo che insieme condivideremo ad alcune pagine che ci preparano a vivere il mistero del Natale. Quindi questa sera sosteremo su alcune pagine del Vangelo di Luca, proprio in preparazione a quello che tra una settimana celebreremo tutti insieme. Vi invito, per chi è nella possibilità, a prendere tra le mani un'edizione della Bibbia, a tenerla aperta davanti a sé, in modo da seguire insieme il testo. Vi ricordo anche che la nostra puntata si regge sempre su due polmoni, su due pilastri. Il primo pilastro è quello della condivisione della parola di Dio a partire dalla mia spiegazione, che cercherà di evidenziare alcuni aspetti del testo. Il secondo pilastro, che non è meno importante del primo, sono i vostri interventi, sono le vostre riflessioni, le vostre domande, che ci permettono di continuare nella riflessione quanto può essere stato tralasciato. Quindi ci poniamo fin dall'inizio in ascolto di questa parola di Dio e vi dico in sintesi come affronteremo insieme la prima parte della nostra puntata, della nostra trasmissione. Ho pensato di riflettere insieme a voi su alcuni episodi che circondano il mistero del Natale nel Vangelo di Luca. Ed è curioso, quando noi leggiamo i primi due capitoli di questo Vangelo dedicato proprio al Vangelo dell'infanzia, è interessante notare come attorno al mistero del Natale per ben tre volte torna sempre lo stesso invito, e lo stesso invito è l'invito a non temere, a non avere paura. Questo invito tutte e tre le volte viene rivolto da un medesimo protagonista, e il medesimo protagonista è l'angelo. In due casi l'angelo Gabriele, in un terzo caso un angelo non ben definito, ma sembra sempre essere l'angelo Gabriele. Questo triplice invito, che ha lo stesso protagonista, avviene, si svolge in spazi complementari, e vedremo quali sono questi spazi complementari, cioè spazi diversi che però indicano degli atteggiamenti particolari del credente. E dalla riflessione sui tre brani da cui noi attingeremo le nostre riflessioni, vedremo che ci vengono suggeriti da Luca tre atteggiamenti con i quali avvicinarsi al Natale. Quindi c'è un po' come un movimento trinitario, il numero tre ricorre più volte, quindi tre volte l'invito a non temere, tre volte l'entrata in scena dell'angelo, tre spazi diversi ma complementari l'uno all'altro, tre atteggiamenti con cui accostarsi al Natale. Ecco, speriamo che riflettere su queste cose possa aiutare tutti noi proprio a celebrare bene il mistero che ci aspetta. Tengo anche a, così per coerenza, per onestà, a dire a voi ascoltatori che la riflessione di questa sera nasce da una maturazione a partire da un ritiro che ho tenuto alcune settimane fa nella mia parrocchia d'origine. A volte quando si spezza la parola di Dio con gli altri, poi questa parola risuona in chi parla, risuona dentro di sé, quindi permette anche a chi parla di approfondirla ulteriormente e magari fare quegli approfondimenti che poi possono essere ulteriormente condivisi, questa sera appunto con ciascuno di voi. Ma cominciamo con la prima scena. La prima delle tre scene riguarda, vede protagonista, il padre di Giovanni Battista, Zaccaria. Ascoltiamo il testo, siamo al capitolo primo del Vangelo di Luca, dal versetto 5 in poi. Leggo il testo. Al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia, che aveva in moglie una discendente di Aronne di nome Elisabetta. Ambedue erano giusti davanti a Dio e osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Essi non avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni. Avvenne che mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni sacerdotali davanti al Signore durante il turno della sua classe, gli toccò in sorte, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, di entrare nel Tempio del Signore per fare l'offerta dell'incenso. Fuori tutta l'assemblea del popolo stava pregando nell'ora dell'incenso. Apparve a lui un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita. Tua moglie Elisabetta ti darà un figlio e tu lo chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore. Non berrà vino né bevande inebrianti, sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Egli camminerà davanti a lui con lo spirito e la potenza di Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto». Zaccaria disse all'angelo: «Come potrò mai conoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie è avanti negli anni». L'angelo gli rispose: «Io sono Gabriele che sto dinanzi a Dio e sono stato mandato a parlarti e a portarti questo lieto annuncio. Ed ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose si avvereranno, perché non hai creduto alle mie parole che si compiranno a loro tempo». Intanto il popolo stava in attesa di Zaccaria e si meravigliava per il suo indugiare nel tempio. Quando poi uscì e non poteva parlare loro, capirono che nel tempio aveva avuto una visione, faceva loro dei cenni e restava muto. Compiuti i giorni del suo servizio, tornò a casa. Dopo quei giorni Elisabetta, sua moglie, concepì e si tenne nascosta per 5 mesi e diceva: «Ecco che cosa ha fatto per me il Signore nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna fra gli uomini». Ecco la prima scena. La prima scena, notiamo, ha per protagonisti una coppia di sposi anziani di stirpe sacerdotale. Viene chiaramente detto che Zaccaria è un sacerdote della classe di Abia, che aveva in moglie una discendente di Aronne, quindi anch'essa di stirpe sacerdotale, di nome Elisabetta. Notiamo quindi la tipologia di persone, è una tipologia che appartiene a una realtà sacra per eccellenza, cioè un sacerdote e la moglie di un sacerdote. Di questi due protagonisti ci vengono detti, ci viene riportato un elenco di virtù, perché ci viene detto che ambedue erano giusti davanti a Dio e quindi avevano dei rapporti di giustizia nei confronti di Dio e degli uomini, ma non si limita a dire questo il testo. Oltre ad essere giusti, osservavano tutte le leggi, quindi non solo quelle più importanti, ma tutte le leggi, e lo osservavano in modo irreprensibile. E addirittura c'è una sfumatura nel greco che dice non solo tutte le leggi, ma anche le prescrizioni del Signore, per cui se noi volessimo tradurre in gergo volgare potremmo dire tutte le norme di serie A e le norme di serie B, cioè le cose più complicate e le cose secondarie. Quindi c'è un'osservanza e una giustizia da parte di questi due protagonisti che copre a 360 gradi quanto viene richiesto dal Signore. Tuttavia, di fronte a questo elemento, se vogliamo dire, di luminosità che caratterizza questi due sposi, ecco la grande macchia, ecco il grande limite. Non avevano figli perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni. In altre parole, il fatto di non avere figli è legato a un limite della donna, la sterilità di Elisabetta, ma anche a un limite di età che non può essere risolto. L'Evangelista mette subito davanti al lettore che c'è una situazione di povertà che caratterizza questa coppia che riguarda il passato, il presente, ma anche il futuro. Non c'è possibilità per il futuro perché tutti e due sono avanti negli anni. Teniamo presente che questa condizione nel contesto del primo secolo non era una condizione come può essere recepita oggi. La sterilità era vissuta nell'antico Israele come un peso molto grave da parte delle coppie, proprio perché la fecondità era il segno della benedizione di Dio. C'era un po' una visione limitata anche sia del significato del matrimonio, sia di ciò che era benedizione e maledizione, per cui spesso la sterilità di una donna era vissuta da una coppia come una maledizione, tanto vero che nel caso di un sacerdote, quindi è il caso di questa coppia, il sacerdote era addirittura invitato a respingere la donna se questa non gli dava figli. Cosa che Zaccaria non ha fatto. Zaccaria ha tenuto Elisabetta vicino a sé. Quindi notiamo una coppia di sposi di stirpe sacerdotale, osservano tutta la legge, quindi sono in piene norme di purità, cioè la purità al massimo grado. Dove avviene la scena che noi troviamo descritta? Avviene nel Tempio, quindi in un ulteriore elemento sacro, perché il Tempio è lo spazio sacro per eccellenza. Quando? Nell'ora dell'offerta dell'incenso, che era uno dei tre momenti più significativi della giornata, dove il sacerdote, a nome del popolo che non a caso aspetta fuori, offre, si fa intermediario del popolo per offrire le sue preghiere, le preghiere del popolo a Dio. Quell'incenso che sale al cielo rappresenta proprio l'offerta che il sacerdote fa dei bisogni del popolo a Dio. Quindi il popolo è fuori, il sacerdote media e questa preghiera sale al cielo. Tutti gli elementi che descrivono la scena sono tutti elementi che dicono la sacralità del momento. Ed è in questo contesto che compare l'angelo del Signore, compare Gabriele, apparve a lui un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare dell'incenso, cioè mentre il sacerdote eleva le preghiere a Dio, Dio scende e si mostra attraverso la mediazione dell'angelo. Quindi e l'invito che rivolge a Zaccaria è quell'invito che risentiremo altre due volte. Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita. Quindi si entra, teniamo presente che questa dopo il prologo è la prima pagina del Vangelo di Luca, una pagina che inizia proprio là dove il canone dell'Antico Testamento, cioè la sequenza dei libri dell'Antico Testamento, il canone cattolico, terminava il canone cattolico con la profezia di Malachia che prometteva l'annuncio di Elia, il ritorno di Elia che avrebbe preparato l'arrivo del Messia. Bene, il Vangelo di Luca si apre riprendendo quest'ultima profezia dell'Antico Testamento e dando compimento. E questo compimento viene annunciato dall'angelo, quindi in una situazione di estrema povertà, però caratterizzata da uno spazio sacro, irrompe la presenza di Dio assicurando il compimento del suo disegno. Il problema è che di fronte a tutto questo Zaccaria dubita, non solo dubita, ma chiede un segno, provocando l'ira dell'angelo, perché in altre parole l'angelo gli dice: ma come? Più segno di me, che sono stato, che sto al cospetto di Dio, che sono stato mandato da te, che sono sceso dal cielo sulla terra per portarti questo annuncio, ma quale altro segno vuoi? E allora il segno diventa il primo atteggiamento, con cui accostarsi al mistero dell'incarnazione, che è l'atteggiamento del silenzio. All'uomo viene tolta la parola. Quindi in questo atteggiamento di silenzio Zaccaria dovrà vivere 9 mesi e l'assenza della parola per ovviamente un sacerdote, che ha anche un compito di rappresentanza davanti al popolo, diventa lo spazio necessario per interiorizzare il mistero di quello che Elisabetta e Zaccaria stanno vivendo. Quindi cosa noi cogliamo da questa prima scena della triade su cui vogliamo sostare insieme questa sera? Il primo elemento, notiamo che Dio si fa presente in un contesto sacro per eccellenza, quindi là dove c'è la giustizia, là dove c'è l'osservanza irreprensibile, là dove c'è un tempio, un tempio, quindi un luogo di preghiera e un tempo di preghiera, l'offerta dell'incenso, là dove il sacerdote e il suo popolo si trovano uniti nel cercare di raggiungere Dio. Questa è la cornice iniziale che viene presentata da Luca per dire: ecco, Dio si rende presente in questo contesto e la sua prima parola nel rendersi presente è quell'invito: non temere. Un invito che, se noi guardiamo nella storia della tradizione biblica, coinvolge i grandi personaggi della salvezza, cominciando da Abramo, proseguendo con Mosè, proseguendo con le grandi figure dei profeti, quali Isaia, Geremia, Elia, tutte grandi figure che nella storia hanno sperimentato su di sé l'invito a non temere. Un invito che si è sempre tradotto in queste singole persone in un duplice invito, a un cammino di conversione da un lato e a un cammino di responsabilità. Cammino di conversione per raddrizzare la propria visione di Dio da un lato e cammino di responsabilità per assumere su di sé la storia del popolo. Pensate ad Abramo, pensate a Geremia, ogni profeta, Geremia, Isaia, tutte queste figure hanno dovuto in qualche modo rivedere la propria visione di Dio e nello stesso tempo imparare a farsi carico del popolo a cui erano mandati. Ecco, questa è la prima scena. Facciamo ora un breve stacco musicale, un breve stacco di silenzio per ripercorrere un attimo questo brano e cercare di rimettere a fuoco questi elementi. Quindi l'invito a non temere, protagonisti sacerdoti, lo spazio sacro per eccellenza, vedremo come questo spazio poi si declina con gli altri 2 spazi che incontreremo e l'atteggiamento che viene indicato al lettore, l'atteggiamento del silenzio. In alcuni casi è necessario per accogliere il mistero di Dio vivere il silenzio, essere privati della parola, con la parola si compiono molti errori, compresa la domanda che Zaccaria ha fatto. Quindi lasciamo un breve stacco musicale prima di continuare con il secondo brano, che vedremo si colloca in una cornice totalmente diversa. Un breve stacco. Ecco, il secondo brano si pone in diretta continuità con il primo. Troveremo lo stesso invito a non temere, lo stesso protagonista, l'angelo Gabriele, però con uno spazio e un atteggiamento a cui viene invitato il lettore totalmente diversi da quello precedente. Allora, riascoltiamo questo brano, anche se lo conosciamo tutti perché viene proclamato più volte nella liturgia, ma è importante riascoltarlo secondo questa prospettiva, prima di commentare sulla base di quello che stiamo dicendo. Siamo sempre al capitolo 1, il testo è quello che segue, quindi dal versetto 26 al versetto 38. Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra, perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile, nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco, sono la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Ecco, in questo secondo episodio, notiamo, abbiamo ancora come protagonisti una coppia. Se prima avevamo come protagonisti Zaccaria ed Elisabetta, una coppia anziana, non più in grado di concepire figli perché erano avanti negli anni, in questo caso abbiamo un'altra coppia, Maria e Giuseppe, che non sono assolutamente anziani, sono molto giovani, e non solo sono molto giovani, ma non hanno ancora iniziato a coabitare insieme. Quindi è un po' come se Luca ci mette di fronte a due estremi opposti: quelli che oramai vivono una vita insieme da anni e sono anziani, quelli che si preparano a vivere una vita insieme, ma che ancora non coabitano, sono fidanzati. È interessante e significativo il fatto che di questi due protagonisti non ci viene detto di che stirpe sono, cioè ci viene detto che Giuseppe viene dalla casa di Davide, ma mentre i primi due sono di stirpe sacerdotale, questi due, Maria e Giuseppe, sono di stirpe totalmente laica. Quindi di là abbiamo una cornice sacrale con tutta una serie di virtù che vengono indicate. Di qua invece viene posta una cornice, potremmo dire, laica, senza un elenco di virtù. Non ci viene detto che Maria era osservante, irreprensibile di tutte le norme e le prescrizioni del Signore. Ci viene semplicemente detto che Maria era promessa sposa a Giuseppe, punto. La cornice non è, anche in questo secondo episodio, non è una cornice sacrale, non ci troviamo al Tempio, non ci troviamo in una sinagoga, non ci troviamo in un luogo di culto. Ci viene detto che l'angelo viene mandato da lei, entrando da lei disse, non ci viene detto dove entra, probabilmente è nella casa. Tanto vero che l'angelo, c'è come un focus, no? Viene mandato da Dio in una città della Galilea, poi dalla Galilea si scende e si focalizza a Nazaret, e da Nazaret ci si focalizza su questa vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. Si entra, si può dire, in una casa, e la casa non è uno spazio sacro, è uno spazio laico. Non solo, non ci viene nemmeno detto il tempo in cui questo avviene, non ci viene detto che Maria stava pregando. Noi dobbiamo stare attenti a volte a come ci immaginiamo la scena dell'Annunciazione, perché dentro di noi abbiamo tutta una serie di luoghi comuni che derivano anche dalle descrizioni artistiche di questo episodio. Normalmente gli artisti antichi e moderni, contemporanei, presentano Maria nel momento in cui prega, e molte sono le annunciazioni in cui Maria è seduta o in ginocchio con un libro aperto, che rappresenta appunto la parola della vita che poi si fa carne dentro di lei, sia l'atteggiamento dell'orante, l'atteggiamento della preghiera. Ma il testo non dice che Maria stava pregando, tanto vero che la tradizione apocrifa, che ha dato poi origine a tutta una serie di testi antichi, come ad esempio il Protovangelo di Giacomo, ritengono che la prima apparizione dell'angelo a Maria avvenga mentre Maria va al pozzo ad attingere l'acqua. Ecco perché, per chi di voi è stato in Terra Santa, in genere quando si visita Nazareth si fa sosta oltre alla Basilica dell'Annunciazione, alla Chiesa di San Giuseppe, che sono certamente i due luoghi più significativi di Nazareth, si invita però sempre a fare una sosta alla Chiesa della Sorgente, tenuta dai fratelli ortodossi, sia perché quella era l'unica sorgente di Nazareth, per cui chissà quante volte Maria è andata in quel posto per attingere l'acqua per la sua casa, ma anche perché la tradizione antica, quindi dal 150 d.C. in poi, la tradizione apocrifa riporta il primo annuncio dell'angelo a Maria in quel contesto, mentre Maria va ad attingere l'acqua, e il testo dice che Maria lascia la brocca spaventata e corre a casa piena di timore, e a casa riceve la seconda annunciazione dell'angelo, dell'angelo Gabriele, che praticamente le annuncia la nascita di Gesù. Questo per sottolineare che, diversamente dalla prima annunciazione, che punta molto sull'elemento sacrale, la seconda annunciazione punta molto sull'elemento laicale. Non solo, ma questo elemento della laicità viene ulteriormente enfatizzato dalla scelta di Dio, perché Dio sceglie di far concepire il figlio nel grembo di Maria, in una situazione, in circostanze che sono opposte alla legge. Quindi di là abbiamo due che osservano tutte le norme e le prescrizioni del Signore nel dettaglio. Qui abbiamo invece un Dio che addirittura non osserva la legge che lui stesso ha dato al popolo, perché permette un concepimento prima che i due sposi vadano a vivere insieme, con tutte le pericolosità del caso, perché sappiamo a che cosa poi Maria andrà incontro a motivo di questa gravidanza. In questo contesto scende l'angelo del Signore, l'angelo le disse: non temere, Maria. Allora, una seconda volta c'è lo stesso invito. L'angelo disse a Zaccaria: non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita. In questo caso invece l'angelo dice a Maria: non temere, Maria, perché hai trovato grazia, caris, presso Dio. Concepirai, darai alla luce. Lo schema dell'annunciazione è lo stesso di quello di Zaccaria, ma è totalmente diverso, perché di là c'è un uomo che dubita, di qua c'è una donna che, di fronte alla sua situazione, non dubita di quello che sta succedendo dentro di lei, ma chiede spiegazioni, dice: ma come è possibile questo? Cioè, io non convivo ancora con mio marito, come posso avere un figlio? Ed ecco il mistero che viene svelato. E nel momento in cui il mistero viene svelato, Maria non si ribella, ma si pone, si consegna nelle mani di Dio come terreno, come argilla che può essere plasmata da lui. Quindi di là c'è il dubbio, e al dubbio segue il silenzio, la necessità di questo atteggiamento interiore. Maria invece diventa colei che in questo caso rivolge al lettore l'atteggiamento, il secondo atteggiamento necessario per prepararsi al mistero dell'incarnazione, e questo secondo atteggiamento è la docilità accogliente. Teniamo però presente cosa significa questa docilità accogliente, perché Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola, e non è che l'angelo, dopo questa adesione di Maria, si ferma e illustra Maria nei dettagli quello che lei vivrà, illustra Maria nei dettagli tutte le pagine, tutte le scelte che lei dovrà fare dopo questo episodio. No, appena Maria dice di sì, Luca inserisce come chiusura del testo: l'angelo si allontanò da lei. Quindi questa donna resta sul palcoscenico della storia con un mistero che è più grande di lei, con un mistero da gestire. L'angelo non dice a Maria come si deve comportare con Giuseppe, come spiegare le cose a Giuseppe. L'angelo non dice a Maria come affrontare la situazione del suo paese, nel paese, il paese è piccolo, la gente mormora, chissà quante cose avrà detto contro questa gravidanza di Maria. Non gli dice nemmeno come affronterà questa gravidanza, gli dà solo un segno, e questo segno è il segno di Elisabetta. Ecco allora perché Maria si mette in cammino in fretta verso Elisabetta. Non c'è solo un discorso di carità dietro, certo, questa è una bella rilettura spirituale, dove Maria sa che la cugina anziana è incinta, ha probabilmente bisogno di aiuto e va incontro a lei. Bella interpretazione, però non basta. Maria si mette in cammino in fretta perché c'è un mistero da discernere dentro di lei. Chi può dire a Maria che quella non è stata un'allucinazione, ma è qualche cosa di reale che lei ha vissuto? Chi la può aiutare a far discernimento in quello che lei ha vissuto? Elisabetta, l'unico segno piccolo, discreto, ma significativo che l'angelo le ha dato. Ecco perché Maria si mette subito in cammino verso Elisabetta. Ed ecco perché il testo fa esplodere la gioia di Maria, non qui, ma solo dopo che Elisabetta riconosce in lei il mistero di una nascita, quando ancora niente è visibile. Elisabetta era al sesto mese, si vedeva che era incinta. Elisabetta resta nascosta, ci viene detto, no, per 5 mesi, proprio perché non si fa vedere, non vuole farsi vedere prima che la sua gravidanza sia sicura, sia visibile, altrimenti tutti l'avrebbero presa in giro. Maria no, Maria va subito e Elisabetta riconosce subito che Maria è, che in Maria c'è la vita, al punto tale che lo stesso figlio che lei porta in grembo danza nel momento dell'incontro e la riconosce come madre del Signore. Quello è il segno di conferma di cui Maria aveva bisogno. Quello è il segno di conferma che permette a Maria di capire che quella frase che le è stata detta, nulla è impossibile a Dio, che quella frase è vera, che quella frase è stata rivolta a lei. Nella nostra esperienza di fede abbiamo tutti bisogno di questi segni di conferma e il Signore ce li dà, bisogna solo avere gli occhi aperti per saperli riconoscere, che nulla è impossibile a Dio. Quindi questa seconda scena su cui ci siamo voluti soffermare, notate, c'è l'invito a non temere, c'è lo stesso protagonista che rivolge questo invito, l'angelo. Però gli spazi sono totalmente diversi. Se nella prima scena l'Evangelista Luca dice, bene, Dio si rende presente negli spazi sacri dell'osservanza, in questa seconda scena Luca dice, Dio non si rende presente solo negli spazi sacri dell'osservanza, ma si rende presente anche negli spazi più laici, più nascosti, dove tutto deve ancora essere costruito, dove la gente non ha dei crediti da vantare davanti a Dio. Maria e Giuseppe non hanno dei crediti da vantare davanti a Dio, vengono descritti come un giovane e una giovane semplici che si pongono nelle mani di Dio. E l'atteggiamento però è significativo che viene rivolto al lettore, è l'atteggiamento dell'accoglienza e della docilità, quell'essere argilla che si lascia plasmare docilmente dalle mani del Signore, fidandosi passo dopo passo di quello che può succedere. Ecco allora che le due scene sono complementari, ma ce ne manca ancora una, che è l'ultima scena, quella in cui viene rivolto il terzo invito a non temere. Ecco, prima di passare anche alla terza scena, lasciamo un altro breve stacco musicale in modo da interiorizzare quanto ci siamo detto, dopodiché passeremo alla terza scena, dove ritroveremo lo stesso invito, lo stesso protagonista, ma un ulteriore spazio e un ulteriore atteggiamento su cui riflettere. Un breve stacco musicale. Ecco, la terza scena viene presentata nel contesto della nascita di Gesù. Il capitolo 2 di Luca si sofferma descrivendo la nascita di Gesù nel contesto di Betlemme, e qui viene a un certo punto raccontata la terza scena che è di nostro interesse. Leggiamo il testo, i versetti praticamente sono dall'8 al 20 del capitolo 2. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che egli ama». Appena gli angeli si furono allontanati da loro verso il cielo, i pastori dicevano l'un l'altro: «Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere». Andarono senza indugio e trovarono Maria, Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria da parte sua custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Ecco la terza scena. La terza scena ha come persone coinvolte i pastori. Sappiamo chi erano i pastori rappresentavano una delle classi sociali più inferiori della società del primo secolo, anche perché per il loro lavoro erano costretti a rimanere a contatto con un ambiente, l'ambiente animale, che non assicurava quelle norme di purità che invece i pii ebrei dovevano avere garantito. Se le prime due scene precedenti si svolgono di giorno, perlomeno l'offerta dell'incenso avveniva normalmente nel pomeriggio, l'annunciazione a Maria sembra avvenire nel contesto della giornata, non si parla di sera, questa terza scena avviene di notte, in piena notte, quindi nel momento delle tenebre, nel momento che viene considerato anche quello più a rischio per l'anima. Ecco, in questo contesto dove non ci sono norme di purità che tengono, non ci sono classi sociali né medie né alte, ma c'è la classe sociale più bassa, dove la luce non è presente, ma siamo nel contesto pieno delle tenebre, un angelo del Signore viene mandato a loro, non viene detto il nome, non ci viene detto che è Gabriele, ma in base alla narrazione precedente sembra essere lui quello che porta i lieti annunci. Un angelo del Signore viene mandato a loro ed essi vengono avvolti di luce. In questo contesto viene rivolto lo stesso invito che abbiamo ascoltato prima: non temete. Ecco, abbiamo visto prima che l'invito a non temere coinvolge sempre le persone, invitandole ad un atteggiamento di conversione e rendendole corresponsabili di qualcosa di grande. Bene, questo rendere corresponsabili di qualcosa di grande i pastori è proprio l'annuncio, cioè i pastori sono i primi ad essere coinvolti nell'annuncio della novella che cambia, della notizia che cambia la storia degli uomini, perché l'angelo dice: ecco vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Bene, come fa a essere questa grande gioia di tutto il popolo? Può diventare di tutto il popolo nel momento in cui i pastori annunciano quanto hanno visto e udito, quanto hanno udito e visto, ed è proprio quello che i pastori poi annunceranno, cioè diventano loro gli annunciatori di questa grande notizia. Quindi quel non temere è un non temere che fa recuperare la piena dignità a questi uomini considerati ai margini della società. e anche per loro viene dato un segno, e il segno è il bambino, a volte in fasce, a volte nella mangiatoia. Notate, in ognuno di questi tre brani c'è un segno. Il primo segno è Zaccaria muto, il secondo segno è Elisabetta incinta, il terzo segno è il bambino avvolto in fasce in una mangiatoia. Tre segni che sono tutti umilissimi, poveri. Non dobbiamo mai dimenticarci che i segni sono tre, il segno non è uno, il segno non è solo il bambino avvolto in fasce in una mangiatoia. Il segno è il silenzio di Zaccaria, il segno è quel grembo che oramai sembrava destinato alla sterilità e alla morte, che si riempie di vita e che diventa addirittura una sala da ballo per il piccolo Giovanni Battista, che danza nel grembo di sua madre. Il verbo utilizzato è proprio il verbo greco della danza, skirtao, che dice proprio la danza carica di esultanza. Quindi i segni sono tre. Tre segni poveri che indicano però l'azione di Dio all'interno della storia. E qual è in questo caso l'atteggiamento che viene indicato al lettore? L'atteggiamento è il mettersi in cammino. Questi pastori, appena ricevono questo annuncio, si lasciano coinvolgere al punto tale che si mettono in cammino e diventano annunciatori di quello che è stato loro annunciato, loro testimoniato. Ovviamente prima di annunciarlo però cercano di viverlo, cioè vanno loro a Betlemme, cercano di trasformare quello che è stato detto loro in un'esperienza personale per diventarne poi a loro volta testimoni e annunciatori. Quindi vedete, all'interno di questi tre brani che circondano il mistero dell'incarnazione, noi abbiamo degli atteggiamenti che ci permettono di vivere con intensità il mistero del Natale. Prima di tutto abbiamo questa ridondanza, sottolineatura, che è la nota di fondo di tutti questi brani, e la nota di fondo è quell'invito: non temere. Celebrare il mistero del Natale significa sentire rivolta a noi questa espressione: non temere, non avere paura. E quando il Signore ci rivolge questo invito, non si tratta solo di non avere paura a livello fisico, tutti abbiamo paura, ma di consegnarsi nelle mani del Signore e di lasciare che sia Lui la nostra guida. Quindi questa è la prima cosa. Secondo elemento che caratterizza queste scene è notare come Dio nasca in tutti gli spazi, per tutti, non nasce solo nel Tempio, non nasce solo nel luogo sacro. Nasce nella casa dove vivono Maria e Giuseppe, nasce nella notte, là dove ci sono i pastori marginalizzati, in una situazione di impurità in mezzo ai campi di notte. Quindi tutti gli spazi sono abbracciati da Dio, anche questo è un secondo invito che dobbiamo tenere presente. Guai a noi se pensiamo di celebrare il Natale solamente nel calduccio delle nostre cappelle o delle nostre chiese. Il Natale è un mistero che abbraccia molto di più, e proprio queste pagine ci dicono che celebrare il Natale significa aprire un attimo gli orizzonti del cuore, della mente, lo sguardo, per farsi spazio accogliente per altri. E poi i tre atteggiamenti che abbiamo visto. Celebrare il Natale significa saper tacere, come è stato condotto Zaccaria, saper tacere. Secondo atteggiamento, saper accogliere, essere argilla malleabili nelle mani del Signore, saper mettersi in cammino. Questi tre atteggiamenti sono le disposizioni con cui vivere il Natale. E poi il triplice segno: il segno dell'uomo muto, il segno del grembo sterile che si riempie di vita e il segno del bimbo in una mangiatoia. Segni poveri, ma che sono carichi di Dio e quindi diventano carichi di una ricchezza che ci supera. Ecco, cari ascoltatori, spero che questa lettura di questi tre brani che circondano il mistero del Natale nel Vangelo secondo Luca possano essere in qualche modo di aiuto a ciascuno di noi. Ora però tocca a voi, dopo che abbiamo condiviso insieme la parola di Dio, a partire dalla mia parola, diventa significativo e importante anche ascoltare le vostre riflessioni, le vostre domande, ricordando sempre quel famoso detto della tradizione rabbinica secondo la quale quando una parola di Dio ha la sua efficacia nei nostri cuori non può non far nascere una marea di interrogativi e di domande, e ogni domanda diventa come una perla preziosa che ci permette di scavare ulteriormente, è come un indizio per scavare ulteriormente e andare a cercare il tesoro che sta sotto. La spiegazione di una persona è solo un piccolo indizio rispetto al grande tesoro della parola di Dio, e questo grande tesoro può essere colto, approfondito, nella misura in cui anche voi interagite in queste trasmissioni, ponendo domande, facendo riflessioni che permettono un po' a tutti di arricchire la comprensione della parola. Facciamo quindi questo stacco musicale che permette a ciascuno di voi di prendere la linea, di intervenire e di continuare la nostra riflessione fino alle 7:30. Posso parlare? Pronto, buonasera, in linea, parli pure. Sì, sono Giorgio Damassa. Volevo intervenire sulla interpretazione di quella risposta di Maria che dice com'è possibile se non conosco uomo. Ho sentito altri commentatori che la interpretano in questo modo, cioè ogni donna in Israele ambiva ad essere la madre del Messia, quindi non era un evento assolutamente estraneo alle aspettative. E l'angelo non dà dei tempi sull'evento, quindi questo sarebbe potuto succedere nella fase di convivenza successiva. Quindi questi commentatori lo interpretavano come un'altra condizione di Maria, quella in cui lei aveva fatto voto di verginità e quindi sarebbe stato impossibile per lei a patto di rompere questo voto. Cosa ne pensa? Sì. Allora, la ringrazio Giorgio per questo suo intervento. Allora, ovviamente io le rispondo da biblista, dal mio punto di vista. Teniamo presente che ogni brano della parola di Dio può essere soggetto alle interpretazioni più diverse, quindi questo fa parte anche della ricchezza dei brani. Quindi un conto è chi accosta un testo secondo una prospettiva di spiritualità, per cui la spiritualità magari permette alcune interpretazioni che magari contraddicono altre interpretazioni. Un conto è la lettura del biblista. La lettura del biblista in genere cerca di tenere ben presenti le cornici tipiche del tempo, e una delle cornici tipiche del primo secolo richiede la contestualizzazione nel primo secolo. Ora, il contesto del primo secolo, pur essendoci dei casi in cui venivano fatte delle scelte radicali di adesione totale al Signore, e ci sono dei casi anche nella tradizione ebraica, normalmente però non prevedevano dei voti di verginità come noi li intendiamo oggi. Quindi da un punto di vista così di lettura che tiene presente il contesto sociale del primo secolo, io non partirei dal dire Maria aveva fatto voto di verginità. Tanto vero che la domanda che Maria fa all'angelo non è io sono vergine, ho fatto voto di verginità, com'è possibile questo? No, Maria fa presente all'angelo che non coabita ancora con Giuseppe. Teniamo presente che l'angelo, quando rivolge il saluto a Maria, gli rivolge un saluto che rende già attuale quello che dice. Se voi notate, l'angelo si rivolge a Maria dicendo rallegrati Caire, piena di grazie, il Signore è con te, e poi continua, non temere Maria perché hai trovato grazia presso Dio, cioè questo essere immersa nella caris di Dio, questo essere oggetto totale della volta nella caris di Dio è ciò che colpisce Maria, perché il testo dice a queste parole ella fu molto turbata. Paradossalmente Maria non è turbata dal fatto di avere un angelo davanti a sé, ma di quello che l'angelo sta dicendo a lei come donna, della descrizione che sta dando di lei, cioè Maria si scopre immersa in un mistero, in un disegno che è molto più grande di lei. Quindi è vero, ci sono queste letture spirituali che non voglio minimizzare, sono letture possibili, perché chi di noi può dire cosa veramente è successo? Noi stiamo ai dati che abbiamo qua sui testi. Quindi è una lettura, quella che lei propone, Giorgio, che è possibile, che non mi sento di negare, però da un punto di vista biblico, strettamente biblico, che si basa sul testo e sul contesto sociale del primo secolo, direi può essere anche così, può essere anche diversamente, cioè Maria pone come interrogativo quello di dire, bene, però io avevo pensato di sposare Giuseppe, di abitare insieme a lui, in questo momento non abita ancora insieme a lui, come posso dare origine a un figlio? Devo unirmi a Giuseppe per questo. Quindi nel momento in cui chiede spiegazioni su questa cosa, l'angelo dice no, questo figlio non nascerà dalla tua unione con Giuseppe, ma nasce per mistero di Dio, lo Spirito Santo scenderà su di te. Per non rovinare, leggo il testo. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce, dice, lo Spirito Santo scenderà su di te, la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Viene qui evocato l'immagine dell'ombra di Dio, che è sempre nella storia di Israele, nella storia del popolo, un'ombra generativa. Teniamo presente quest'ombra che accompagna anche il popolo nel suo cammino dall'Egitto alla terra promessa. Cosa genera il popolo? È questa presenza costante di Dio che gli dà un'identità. Così questa stessa ombra si posa su Maria e genererà il figlio di Dio. Quindi direi che va più in questa direzione la comprensione del brano, senza tuttavia escludere l'altra. Teniamo presente che questa lettura che noi stiamo facendo da un punto di vista biblico, che tiene presente il contesto sociale del primo secolo e le consuetudini del primo secolo, è una lettura che viene accolta senza problemi anche dalle altre confessioni cristiane. Diversa invece è la lettura che veniva proposta da Giorgio. La lettura che viene proposta da Giorgio crea subito divisione, perché soprattutto nelle denominazioni protestanti non viene accolta un'interpretazione del genere, perché è un'interpretazione che rischia di essere applicata al testo senza dei fondamenti precisi. Quindi la mia lettura è in questo senso, non escludo l'altra, perché ovviamente la tradizione ha un suo peso e ha un suo valore, però è sempre bene tenere presente questa ampia possibilità di interpretazione del brano. Grazie a Giorgio da Massa per il suo intervento. Sì. Pronto? Sì. Sì, pronto, buonasera, sono Guglielmo da Roma. Guglielmo. Sente? Certo, la sento bene. Sì, no, io facevo una riflessione rispetto a questo discorso qua, e la mia riflessione era questa, cioè mi sembra di vedere come se l'uomo è alla ricerca di Dio, naturalmente, e Dio comunque anche senza la rivelazione gli risponde, poi con la rivelazione, cioè con Maria, dà una risposta sul divino, quindi c'è l'umano e il divino, e poi l'azione, questa è la piccola riflessione, l'azione che il divino compie dentro il popolo che siamo tutti noi. Allora io pensavo, dico, ma in questo contesto qui qual è la nostra chiamata? Cioè dove noi, da quale parte, perché siamo dalla parte del Giovanni Battista, dalla parte della persona che non sa esprimersi, oppure siamo dalla parte di Maria? Qual è la nostra effettiva chiamata di cristiani per avere un contatto vero e proprio con Dio, sincero, vero, ecco? E questo è parte di poter riflettere. Grazie. Grazie mille, Guglielmo, per questa domanda molto, molto opportuna, direi, perché lei ha toccato un aspetto importantissimo del brano. Qui abbiamo proprio a che fare con l'incontro tra Dio e l'uomo, tra l'umano e il divino. È interessante notare come da un lato c'è l'uomo che attende Dio, che attende il compimento della salvezza, dall'altro però c'è un Dio alla ricerca dell'uomo. E le tre scene su cui io ho voluto fissare l'attenzione stasera mi sembrano significative all'interno della narrazione di Luca, perché sono volutamente messe in collegamento per sottolineare che Dio viene incontro all'uomo in ogni situazione. Lo cerca nel tempio, Zaccaria ed Elisabetta, quindi nello spazio sacro, lo cerca nella casa, lo spazio laico, lo cerca nella notte nei campi, come i pastori, cioè Dio è alla ricerca dell'uomo in ogni situazione, in ogni situazione. Lei pone una domanda, anche questa interessante, diceva, bene, ma noi dove ci dobbiamo riconoscere? Ecco, rispondo a questa sua domanda con una riflessione che un mio confratello ha fatto proprio ieri noi come comunità qui a Cinisello, dove vivo, io sono paolino, quindi vivo in una comunità paolina nella sede della casa editrice, e un mio confratello, aprendo la giornata durante la celebrazione eucaristica, ha invitato i presenti a guardare il presepio che stiamo allestendo, no? E nel presepio ci sono i diversi personaggi, e lui diceva, bene, perché noi allestiamo il presepio? Perché nel presepio noi abbiamo i personaggi più diversi, ora ogni anno siamo chiamati a identificarci con uno di loro, quindi possiamo identificarci con il pastore, possiamo identificarci con i magi, con Giuseppe, con Maria, possiamo identificarci persino con Erode, con lo scriba che si presenta per dire a Erode quelle che erano le profezie, possiamo identificarci con l'anziano che in genere viene presentato all'interno dei presepi che si scalda al fuoco, e così via, i personaggi sono diversi, le scritture ci presentano questi personaggi, quindi Guglielmo, noi potremmo essere proprio come Zaccaria e quindi essere in una fase di dubbio, e allora il testo ci dice, sei nella fase di dubbio, taci per cogliere il mistero. Potremmo identificarci con Elisabetta che si sente sterile, e allora il testo ci dice, ma apri il tuo grembo, nulla è impossibile a Dio, quella sterilità può trasformarsi in fecondità. Potremmo essere come Giuseppe che non ci capisce più niente, e allora il testo, in questo caso di Matteo, dice, guarda Giuseppe, fidati, perché il mistero di Dio è più grande della legge. Potremmo essere come Maria, che si trova, come dire, sovrastata da un mistero più grande di lei, e allora il testo ci dice, apri gli occhi e vai a cogliere i segni che il Signore ti ha dato, quindi questo suo correre da Elisabetta. Potremmo essere come i pastori che si sentono esclusi dalla storia della salvezza, e allora il testo ci dice, mettiti in cammino, vai a contemplare il mistero e diventa annunciatore, non sentirti ai margini della storia, e così via. Cioè, non c'è un personaggio unico in cui noi dobbiamo identificarci dal giorno in cui nasciamo al giorno della nostra morte o del nostro ritorno a Dio. Ogni anno noi siamo un personaggio diverso, e allora chissà qual è il personaggio che ci è riservato in questo Natale. Ognuno di noi lo deve un po' cogliere, però per ognuno di questi personaggi c'è un mistero, c'è un messaggio che va nella direzione che lei ci diceva, Guglielmo, un messaggio che ci dice come Dio viene incontro a noi e si incarna nella nostra storia, qualunque storia sia, che sia storia sacra, che sia storia laica, o che sia storia addirittura che si sente ai margini, che è segnata dall'impurità, dalla notte, dalla paura, come appunto quella dei pastori. Grazie quindi, Guglielmo, per questo tuo intervento. Pronto? Buonasera. Sì, pronto, buonasera, sono Tommaso da Lecce. Mi dica, Tommaso. Sì, mi ha colpito molto il commento appunto che lei faceva sullo non temere, no? Ecco, ma questo sicuramente mi ha fatto capire che Maria, già prima dell'annuncio dell'angelo, già lei aveva intrapreso, Maria, un forte e anche profondo cammino di fede, no? E questo, paragonandolo un po' alla mia vita, mi fa capire come veramente il non mentire fa parte anche fa parte anche della mia vita spirituale, mentre prima avevo paura di tutto, per andare solo all'ascensore, a stare solo a casa o altre cose, adesso vedo che non ho più paura, perché il Signore appunto mi dice non temere, che io sono con te, ti sono sempre vicino. E questo mi ha molto colpito, diciamo, il suo messaggio in questa bellissima catechesi che lei ha fatto. Grazie. Grazie mille Tommaso. Ovviamente nel momento in cui una persona viene coinvolta, no, nel disegno di Dio, è, come dire, facile accogliere questo disegno di Dio nella misura in cui c'è un cammino di fede. Però sarei attento anche a fare queste associazioni immediate. Mi spiego. Cioè, tra i tre protagonisti di stasera noi abbiamo il sacerdote, che dovrebbe essere quello che più di tutti doveva fare il cammino di fede proprio per la sua realtà, e paradossalmente è quello che più di tutti gli altri esce malconcio, perché non solo viene ridotto al mutismo, ma è anche quello che fa più brutta figura di tutti e tre. Abbiamo poi Maria che si presenta, però di Maria non ci viene detto che aveva fatto un lungo cammino di fede. Ci viene detto che è oggetto della grazia di Dio e che alla luce di questa grazia di Dio si rende semplicemente disponibile, si pone nelle mani del Signore cercando di seguire giorno dopo giorno le sue indicazioni. Quelli che risultano invece veramente vincenti in questa storia sono i pastori, perché di per sé i pastori, così come erano considerati nel primo secolo, erano quelli che non solo erano lontani dalla fede, ma lontani da ogni cammino di fede, erano considerati dei ronzi ignoranti, perché non avevano il tempo per studiare ed erano proprio ai margini della società. Bene, chi sono i pastori qui se non quelli che diventano i primi evangelisti, i primi annunciatori, se non quelli che si mettono subito in cammino, che dicono ma andiamo a vedere quello che ci è stato detto, e subito si mettono a parlare al punto tale che gli altri si stupiscono e gioiscono per quanto hanno detto i pastori. Quindi è vero che c'è un discorso di un cammino di fede che ti prepara a, però il mistero del Natale è il momento in cui noi contempliamo, noi meditiamo sul dono gratuito di Dio, su un dono gratuito che a volte ti trasforma radicalmente. Poi lei, Tommaso, sottolineava l'interesse per questi tre non tenere, no? Che ricorrono uno dopo l'altro in, se vogliamo, in brani così vicini, cioè si vede che Luca voleva proprio che questo non tenere entrasse nella nostra testa. Ecco, è interessante percorrere la scrittura e ritrovare all'interno delle pagine della scrittura questi inviti a non temere. E qui cito un testo che è appena uscito dalla mia casa editrice, che si intitola 365 motivi per non temere, dove l'autore, che è Don Maurizio Mirilli, responsabile della pastorale giovanile di Roma, ecco, questo autore cosa ha fatto? Ha cercato nella Bibbia tutte le volte in cui ricorre da parte di Dio o dei suoi messaggeri, i profeti, gli angeli, l'invito a non temere, e lui con grande sorpresa ne ha trovati 365 inviti, quindi 365 volte, e ha fatto subito l'associazione. Lui dice, ecco, se io percorro la Bibbia è come se la Bibbia per ogni giorno dell'anno mi desse un motivo, mi regalasse un motivo per non avere paura. E ha costruito quindi questo libro che accompagna proprio l'anno, no? 365 motivi per non avere paura, dove in ogni giorno lui offre una citazione, una di queste 365 citazioni, con un breve commento rivolto a tutti, non a credenti solo, ma a credenti e non credenti, cercando di far percorrere un anno intero a chi prende questo libro con questo invito che viene costantemente da Dio. Quindi è interessante notare come l'invito che viene circonda il mistero dell'incarnazione, se vogliamo, è disseminato all'interno delle scritture per accompagnare ogni giorno dell'anno. Questo ci fa capire che Natale non è solo il 25 dicembre, ma è ogni giorno dell'anno. In ogni giorno dell'anno il Signore viene nella nostra storia e ci invita a non avere paura, coinvolgendoci nel suo disegno di salvezza. Questa è realmente una buona notizia, se vogliamo. Quindi per chi di voi vuole come dire, vivere un anno all'insegna dei 365 inviti di Dio, può avere in questo un facile sussidio, strumento per lasciarsi accompagnare. Grazie Tommaso per il tuo intervento. Pronto? Pronto, buonasera, con chi parlo? Buonasera, mi chiamo Stefano e chiamo da Bergamo. Bene, sente il mio accento, anch'io sono di Bergamo, quindi è bello sentire il mio accento. Mi dica Stefano. Innanzitutto volevo ringraziarla per le sue belle catechesi. E poi volevo fare una domanda inerente al concepimento di Maria senza peccato originale. Sì. La domanda è questa: Maria è stata concepita senza peccato originale in quanto Dio ha previsto da prima della sua nascita che Maria nella sua libertà avrebbe detto il suo sì, oppure ha stabilito Dio che sarebbe andata così? Certo, allora, caro Stefano, per una risposta dettagliata e delicata come quella che tu poni, ci vorrebbe un teologo più che un biblista, nel senso che l'approfondimento della teologia ha portato alla riflessione, no, sul mistero dell'Immacolata Concezione, che tra l'altro abbiamo appena celebrato. Come avviene questo concepimento di Maria senza il peccato delle origini? Ovviamente la teologia risponde dicendo che in previsione del sì di Maria, Maria avrebbe accolto quindi il figlio, quindi lei gode fin dall'inizio di quella grazia che si riceve da Gesù, cioè noi questa grazia la riceviamo nel momento del battesimo, quando veniamo immersi nel mistero pasquale. Bene, Maria ricevendo ricevendo il figlio di Dio dentro di sé, già per questo viene, come dire, riceve un battesimo fin dalle origini. Come viene spiegato questo? Perché alcuni dicono va bene, però Maria dice il suo sì non quando viene concepita, ma lo dice a 14 anni o a 16 anni, in base un po' alle date, ecco, che si danno per il momento dell'annunciazione. Come può avvenire questo? E in genere questo viene spiegato dicendo: in Dio non c'è tempo, noi dividiamo le cose in passato, in presente, in futuro. Dio invece abbraccia tutta la nostra storia come se fosse un unico momento presente. Quindi lui ha davanti a sé la nostra storia, ha davanti a sé la nostra libertà di scelta e vede di fronte alla libertà di scelta noi disponiamo il nostro cuore, sia all'accoglienza o al rifiuto. Quindi cogliendo, nel rispetto della libertà di Maria, la sua adesione al mistero di fronte al sì, quindi Maria viene preservata dal peccato fin dal suo concepimento. Questo è quello che la teologia ci dice. Però, come le dico, Stefano, per una risposta più completa su questo aspetto, su questo mistero che è anche poi un dogma mariano, è necessario un teologo. Un biblista può partire da quello che il testo dice, e il testo parla di concepimento virginale di Gesù. Non parla qui in questi brani dell'Immacolata Concezione. Quello è un approfondimento ulteriore che tra l'altro ha richiesto un lungo cammino all'interno della storia, anche se fin dai primi secoli i padri avevano invitato a far proprio questo dogma che poi la Chiesa proclamerà e accoglierà. Grazie quindi Stefano di questo tuo intervento. Pronto? Pronto, buonasera. Pronto, buonasera. Buonasera. Sì. Don Giacomo, buonasera. Sono con io? Con chi parlo, sì. Allora, sono Maria della Sardegna. Bene, Maria, mi dica. Allora, io non ho mai capito i versetti dal 24 al 25, mai fino in fondo. E cioè, Elisabetta concepì e si tenne nascosta per 5 mesi e diceva: ecco che cosa ha fatto per me il Signore nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna tra gli uomini. La mia domanda è: perché mai Elisabetta, liberata dalla vergogna della sterilità, si nasconde? Perché? perché questo sottrarsi agli occhi della gente e dei curiosi? Per la vergogna di restare incinta interdetta? Oppure per evitare facili commenti? Se così fosse, non sarebbe più logico attendersi il nascondimento per tutto il tempo della gestazione o semmai negli ultimi mesi? Non subito, come invece suggerisce il testo, concepì e si tenne nascosta per 5 mesi. La ragione sembrerebbe un'altra. Se è un'altra, qual è? La ringrazio, Don Giacomo, e l'ascolto per radio. Grazie mille, Maria. Pone una domanda interessante e la risposta che io do in genere a questo brano è questo. Allora, la vergogna è chiara qual è? La vergogna è quella di essere sterile. Teniamo presente quello che vi dicevo prima, nel primo secolo la sterilità era vissuta come una sorta di maledizione che piombava su una casa e questa vergogna aumentava esponenzialmente quando la donna era moglie di un sacerdote, perché il sacerdote doveva essere segno della fecondità della sua comunità. Quindi un sacerdote che aveva una moglie sterile era in una situazione di vergogna massima. Ecco perché la legge invitava i sacerdoti a separarsi dalla moglie sterile, ed era un invito molto caldeggiato, cosa che Zaccaria non fa, quindi la vergogna è questa. Perché Maria, perché Elisabetta ci viene detto si tenne nascosta per 5 mesi? Perché se Elisabetta fosse andata in giro a dire bene, dopo che Zaccaria è diventato muto ho concepito un figlio, la gente le avrebbe riso in faccia, quindi conviene tenere, questa cosa, questa notizia andava tenuta dentro di sé. Elisabetta è bene che se ne stia in casa sua in questa fase, che non dica che è incinta, che non mostri quegli elementi che in genere sono associati a una gravidanza e che si riconoscono in una donna, no? Perché la gente le avrebbe riso in faccia. Quando invece la gravidanza diventa visibile e la cosa non può più essere messa in discussione, ecco che allora non è più vergogna, ma è segno di un'azione di Dio che è intervenuta in quella coppia. Teniamo presente, il testo dice che erano tutti e due avanti negli anni. Avanti negli anni non significa che Elisabetta probabilmente era tra i 46 e i 49, i 50 anni, che comunque sono ancora una fase dove una gravidanza può ancora intervenire. Oggi addirittura c'è chi osa ben più in là, ma il testo qua dice che sottolinea questo aspetto mettendo Elisabetta nella condizione che la situazione è proprio oramai, non c'è più niente da sperare. Invece proprio questo elemento diventa il segno di Dio, per cui dopo i 5 mesi Elisabetta può uscire a testa alta, no? Mostrando quello che è il mistero. E nel momento in cui Elisabetta esce mostrando l'azione di Dio, cosa succede? Al sesto mese Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, cioè persino l'annuncio a Maria aspetta che il segno di Elisabetta sia visibile, in modo che quando Maria vada a Elisabetta a constatare il segno sia reale, sia visibile, perché altrimenti che segno è? Quindi io leggo questo testo in questo modo, poi ovviamente c'è anche tutta la tradizione antico-testamentaria che meriterebbe un approfondimento, cioè quando gli evangelisti scrivono le pagine del Vangelo hanno in mente anche le scene antico-testamentarie, per cui i grandi protagonisti dell'Antico Testamento rivivono nelle persone del Nuovo e le persone del Nuovo compiono ciò che è successo nell'Antico. Per cui dietro Zaccaria ed Elisabetta è evidente che c'è la figura di Abramo e Sara, che diventano un po' il modello, la chiave di volta di questo nuovo testamento, quello che noi chiamiamo così, che apre la nuova storia di Dio. E anche di là, nella storia della Genesi, di Sara si sottolinea tutta la vergogna e tutto quello che a volte la vergogna ha fatto, ha suscitato in quella donna. Quindi questo elemento viene poi ripreso nella figura di Elisabetta, però anche là viene sottolineato che nulla è impossibile a Dio, e quindi dalla sterilità Sara diventa la madre di tutti, si può dire, i credenti della storia, così come Elisabetta dalla sterilità diventa colei che per la prima volta riconosce in Maria la madre del Signore e annuncia per la prima volta l'arrivo del Signore, prima ancora dei pastori. Grazie mille Maria, quindi, per questa tua domanda. Pronto? Pronto? Pronto? Sì, con chi parlo? Ci sono Giovanna da Palermo. Giovanna da Palermo, mi dica. Sì, io ho fatto una piccola riflessione e pensavo, Don Giacomo, ho ascoltato la sua catechesi bellissima, ho ascoltato, cioè mentre riflettevo, mi ha colpito proprio il verbo, la parola. Cioè, vedo Zaccaria che Dio lo mette, diciamo, dolcemente a tacere, come dire, sei buono per non venersi, mentre dopo nascerà il verbo, cioè la parola che è Gesù. Vedo una continuità, come se ci fosse qualcosa che sia il Signore, sia la parola, quella parola che è stata tolta a Zaccaria. Nel frattempo la Madonnina Maria è la Vergine e l'Immacolata Concezione, perciò è come se fosse un dipanarsi di una matassa, l'incontro con Elisabetta. È chiaro che Elisabetta, penso come succede ai santi, che hanno qualcosa di meraviglioso, emanano qualcosa di meraviglioso, si figuri la Madonnina. Perciò nell'incontro fra Elisabetta e la Vergine è chiaro che c'è qualcosa, si accorge che c'è veramente Dio in lei, e poi ci sarà il Magnificat. Nello stesso tempo l'incontro, la terza parte che diceva lei, i pastori, non siamo, perdoni, con umiltà cerco di spiegarmi, non so se sono chiara, i pastori non siamo altro che noi, l'umanità che ha fede, nella fede c'è chi cerca Dio, chi lo ama. Grazie mille Giovanna per il suo intervento. Allora, sicuramente queste scene, questi brani sono abitati dal silenzio. Il silenzio rappresenta, oltre all'invito a non temere, una nota dominante delle scene. Abbiamo visto Zaccaria che viene reso muto, abbiamo visto anche dopo l'annuncio, dopo la disponibilità di Maria, c'è un lungo silenzio che accompagna quel viaggio di Maria verso la cugina Elisabetta, e poi anche la finale, abbiamo visto che la finale ci sottolineava che Maria custodiva e conservava tutte queste cose meditandole all'interno del suo cuore, un'altra dimensione del silenzio. Quindi il silenzio è proprio uno di quegli atteggiamenti con cui accostarsi al mistero del Natale, dell'Incarnazione. Quello che è bello è che accanto alla dimensione del silenzio viene sottolineato ciò che del silenzio è il frutto. Questo silenzio non genera mutismo, ma genera il canto. Zaccaria, dopo 9 mesi di silenzio, esplode nel canto del Benedictus. Maria, dopo un viaggio silenzioso, esplode nel canto del Magnificat. I pastori, dopo quella notte silenziosa a vegliare il gregge, come dire, ascoltano e si uniscono alla lode, al canto gioioso di tutti gli angeli che cantano gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama. Quindi ci sono 3 grandi canti in queste sempre 3 scene che hanno tutti degli elementi comuni. Quindi possiamo dire che il mistero dell'Incarnazione si muove tra il silenzio e il canto, dove tutti e due gli elementi sono 2 dimensioni della fede. Il primo permette l'interiorizzazione del messaggio di Dio, il secondo permette il collegamento con Dio. Laddove l'uomo si trova in sintonia con Dio, il silenzio non può non tradursi in una dimensione della gioia. E qui mi permetto di richiamare quella che è la prima parola del Nuovo Testamento, no? La prima parola che apre il mistero dell'incarnazione. Questa prima parola è l'invito alla gioia, Kaire. Spesso questa parola è stata tradotta con ti saluto, ave, ma non ha niente a che vedere con il semplice saluto, è qualcosa di molto più pregnante, molto più forte. Dio si rivolge all'uomo annunciando il mistero della sua incarnazione, invitandolo alla gioia, quella gioia che ha un'affinità con la grazia di Dio, che è fonte della grazia. Per vivere però questa gioia è necessario il mistero del silenzio. E non a caso il verbo della vita, colui che sarà parola, colui che sarà annuncio, colui che diventerà maestro degli uomini, fa generare la sua parola dal silenzio, perché Gesù nasce, si incarna come neonato. Un neonato non ha parola, ha solo strilli quando è piccolo, deve imparare la parola. E quindi ci sono anche per Gesù una lunga sequenza. Gesù non è che è nato e sapeva parlare, Gesù ha imparato a parlare, come ha imparato a gestire tutto se stesso, E quindi anche per Gesù ci sarà un periodo che è il periodo di altri 12 mesi prima di cominciare a balbettare, a parlare e quindi a diventare annunciatore per gli altri. Grazie quindi Giovanna anche della sua lettura che ci ha permesso di fare questo ulteriore approfondimento. Siamo quindi alla fine della nostra trasmissione, ringrazio tutti quelli che sono intervenuti con le loro domande a Giorgio da Massa, Guglielmo da Roma, Tommaso da Lecce, a Stefano da Bergamo, a Maria dalla Sardegna, a Giovanna da Palermo, perché con le vostre domande avete praticamente permesso di approfondire ulteriormente la nostra riflessione. Il mio augurio, quello che faccio a ciascuno di voi, lo attingo dall'intervento di Guglielmo. Guglielmo ci ha portati a riflettere sui diversi personaggi del presepio. Auguriamoci di riconoscerci in almeno uno di essi, non importa quale, l'importante è che ci riconosciamo in uno di essi e con essi cerchiamo di accostarci al mistero dell'incarnazione per iniziare un 2013 all'insegna magari di quel personaggio, in compagnia di quel personaggio che è vicino al Signore. A tutti voi un caro augurio. Con l'augurio di 365 giorni vissuti sotto l'invito a non temere paura, a non avere paura, a non temere. Quindi a tutti l'augurio di un buon cammino verso il Natale e verso il nuovo anno. Ci risentiamo in gennaio. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.